Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, puntata del venerdì. Come tutte le puntate di agosto, dura solamente un'ora, saremo in onda fino alle 18. Di che cosa parleremo oggi? Beh, innanzitutto ci occuperemo di manovra. Come sempre, agosto è il periodo nel quale più o meno si iniziano a gettare le basi per la manovra, quantomeno si inizia ad aprire la discussione sulle singole misure. Ieri il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, nell'intervista al Sole 24 Ore, ha detto che sarà una manovra che punterà essenzialmente sui giovani e sul lavoro. Saranno questi i temi al centro appunto della manovra. Oggi lo stesso Sole 24 Ore torna su tutto questo e parla di una legge di stabilità che dovrebbe partire da 15 miliardi di euro, appunto la prossima manovra sui conti pubblici, di cui 9 miliardi servono in realtà per neutralizzare le cosiddette clausole di salvaguardia, quelle che scattano appunto automaticamente, che sono previste e che riguardano soprattutto in questo caso un innalzamento dell'IVA. Dai risultati della lotta all'evasione, da spending review, dipenderanno appunto le risorse a disposizione degli interventi di sostegno alla crescita, al momento quantificati dunque in 3-4 miliardi di euro circa. Come vedete, i temi sul piatto alla fine sono sempre quelli da ormai da qualche anno, appunto, quando parliamo di legge di stabilità e di legge di bilancio, e si tratta appunto di sterilizzare le cosiddette clausole di salvaguardia da una parte, dall'altra appunto incamerare soldi dai tagli alla spesa pubblica e anche dalla lotta all'evasione. Sono diventati un po' due feticci questi, vedremo se il governo evidentemente ci riuscirà. Ne parleremo con il collega del Sole 24 Ore che se ne sta occupando. Dall'altra parte c'è anche evidentemente la partita con Bruxelles sulla flessibilità, vedremo anche quest'anno quanto Bruxelles sarà disposta a concedere. Tra gli altri temi, ovviamente, quello dei mercati. Oggi la giornata è positiva, più 0,62% per il FTSE MIB, più 0,57% per il FTSE All-Share, ma meglio fanno le altre piazze finanziarie europee, con Parigi che guadagna 1,5%, Francoforte l'1,24%, Londra lo 0,4%. Per quanto riguarda l'America, abbiamo il Dow Jones che guadagna lo 0,10%, lo Standard & Poor's lo 0,15%, in un mercato che è positivo particolarmente dopo l'arrivo dei dati sul lavoro americani, e il Dow Jones che ha messo a segno un altro record. Siamo a 22.048 punti. Abbiamo positive oggi le banche, giusto per darvi un'idea: BPR Banca guadagna il 5,4%, bene anche Mediaset oggi che guadagna il 2,5%, BPM il 2,39%. Positiva anche Unipol, più 2,27%, Ferragamo più 2,04%, Luxottica 1,5%, come vedete però ci sono anche parecchi industriali e soprattutto il lusso a segnare dei risultati positivi nella giornata di oggi. E in fondo al listino troviamo Campari che cede l'1,38%, ST Microelectronics lo 0,75%, Ubibanca lo 0,34%, e tra i titoli in negativo troviamo anche qua un titolo del lusso, è Moncler, meno 0,36%, e giù Mediobanca dello 0,3% al momento. Bancari positivi, si diceva, fa bene anche Intesa San Paolo che guadagna lo 0,86%, e Unicredit che, nonostante la performance di ieri sia stata veramente eccellente, un guadagno di oltre 7 punti percentuali, guadagna pure oggi lo 0,95%. Evidentemente quello che è stato presentato ieri in termini di conti, in termini di possibilità di riduzione delle sofferenze, è piaciuto al mercato parecchio, visto che appunto guadagna anche oggi il titolo Unicredit. Parleremo di fisco, lo avete sentito anche in GR24, le informazioni riguardano le cartelle fiscali che sono state congelate nel periodo fra il 7 e il 20 agosto. Sono complessivamente poco meno di 500.000, sono 400 70.000 le cartelle e gli avvisi da notificare tra il 7 e il 20 agosto e si è deciso che la neo agenzia delle entrate, riscossione, ha deciso di congelare queste cartelle per evitare evidentemente che arrivino durante le vacanze, inizi la decorrenza dei termini e ci siano parecchi problemi per i cittadini che le dovranno ricevere. Dall'altra parte siamo in una fase piuttosto complessa, lo abbiamo già raccontato più o meno ad inizio settimana, che riguarda proprio l'amministrazione fiscale, un po' con la vicenda del passaggio da Equitalia a riscossione che è complesso dal punto di vista legale. E dall'altra parte c'è la consueta confusione sotto il cielo del fisco italiano, per cui abbiamo assistito ad un luglio nel quale ci sono state addirittura delle proroghe alle scadenze di alcuni termini che sono arrivate dopo la scadenza dei termini stessi, che se ci pensate è un vero paradosso ed è il grande tema che attraversa come sempre il fisco italiano. E torneremo sulla vicenda di Neymar, perché è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. I rappresentanti di Neymar hanno fatto sapere di aver pagato la clausola rescissoria di 222 milioni di euro al Barcellona. Molto ci si interroga nel mondo del calcio e non solo nel mondo del calcio, tanto, e ne abbiamo parlato l'altro giorno, sulla mossa da parte del Qatar per liberarsi, se vogliamo, da un po' di giogo, per smuovere gli equilibri geopolitici, visto che il Qatar, come sapete, è sotto un sostanziale embargo, sotto sanzioni da parte di una serie di altri paesi arabo-sunniti, perché accusato di essere in accordo con i terroristi dell'ISIS o quantomeno di sostenerli. Ma dall'altra parte il mondo del calcio è in subbuglio, perché c'è chi parla di un aggiramento abbastanza forte delle cosiddette regole del fair play finanziario, che sono delle regole abbastanza stringenti che hanno consentito in realtà ai club di abbassare i costi in questi anni facendo crescere i ricavi. Bisogna vedere, perché poi c'è una distinzione tra quelli che sono i grandi club come il Barcellona, come lo stesso Paris Saint-Germain, e i piccoli club da questo punto di vista. Giusto per darvi un'idea, poco fa la Federazione Internazionale dei Giocatori di Calcio ha chiesto un intervento alla Commissione Europea, per darvi l'idea della dimensione che sta assumendo una vicenda puramente calcistica, ma che evidentemente ha una sua importanza che va oltre tutto questo. 349-238-6666, come sempre, il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp. Abbiamo la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video, ed è là, se volete, anche ci potete scrivere, ed è là anche che leggiamo i vostri messaggi, le notizie in breve di oggi. Materie prime innanzitutto, con l'oro in calo dell'1%, 1.255 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, anche qua abbiamo dei segnali di calo, il Brent è a 52,1 dollari al barile, il WTI a 49,1, in calo dello 0,5%. Come si diceva, è particolarmente positivo il dato sul lavoro dagli Stati Uniti. Sono stati aggiunti 209.000 posti di lavoro a luglio, la disoccupazione al 4,3%, i salari orari sono aumentati di 0,09 centesimi a 26,36 dollari l'ora. Il il dato è migliore delle attese degli analisti, si attendevano l'aggiunta di 180.000 unità, mentre invece appunto sono stati creati 209.000 posti di lavoro, tasso di disoccupazione che passa dal 4,4%, come si diceva, al 4,3%. E al di là dei centesimi, ossia di questi 0,09 centesimi che segnano l'aumento del salario orario, c'è da considerare la percentuale, un più 0,34% contro le attese di un più 0,3%. In giugno su base mensile erano saliti dello 0,15%. Perché è importante tutto questo? Perché la teoria, almeno fino adesso, ci ha raccontato che quando crescono i salari cresce anche l'inflazione, e così dovrebbe essere, dovrebbe continuare ad essere, e dunque la Federal Reserve potrebbe mettere in atto una nuova stretta monetaria entro la fine del 2017, una terza stretta come ha più volte indicato. C'è da registrare dalla Germania il balzo degli ordini all'industria tedesca, che a giugno segnano un più 1% su mese su base destagionalizzata dopo il più 1,1% di maggio. Le attese degli economisti erano per un rialzo più modesto, dello 0,5%. Su base anno il rialzo degli ordini all'industria tedesco è del 5,1%, un segnale di accelerazione della ripresa che probabilmente si tradurrà in un miglioramento della produzione industriale. Tira in particolare, e questo è un elemento rilevante per la Germania, la domanda interna, che segna un più 5,1%, mentre gli ordini dall'estero sono in calo del 2%. Si diceva prima della tregua d'agosto per le cartelle fiscali, qualche ascoltatore, sempre con i toni delicati che vi caratterizzano, dice: ignoranti, sono anni che le cartelle non vengono notificate in agosto. Sì, lo sappiamo. E sempre lo stesso ascoltatore, rispondo che non è propaganda renziana alla quale diamo voce. Innanzitutto un'informazione utile per tutti quanti. Il secondo elemento è che in realtà ci dà il destro questa vicenda per tornare a parlare di fisco e per tornare a parlare in realtà dei grandi problemi che sta generando questo passaggio da Equitalia a Riscossione Italia e, come dire, di qualche inciampo che c'è stato soprattutto a ridosso dell'estate, che ha messo in crisi i professionisti, i commercialisti. In crisi no, perché ormai sono abituati, insomma. E cittadini. L'Istat ci dice che in Italia si consolida la crescita economica con segnali positivi diffusi a livello settoriale sul mercato del lavoro. Lo dice l'Istat, non lo diciamo noi, quindi non è né propaganda renziana né propaganda gentiloniana, per essere più precisi, perché Renzi al governo non c'è più. E abbiamo anche i dati dell'Istat sulle vendite al dettaglio, che sono i dati sui consumi in sostanza. Crescono dello 0,6% rispetto al mese precedente e in giugno, e dell'1,5% rispetto all'anno precedente, che è l'aumento maggiore da oltre un anno, a partire da marzo 2016. L'Istat registra tuttavia che nel complesso, nel secondo trimestre del 2017, abbiamo registrato una diminuzione dello 0,3%. Secondo Coldiretti, i consumi sono stati stravolti dal caldo record, più 3% per l'ortofrutta, più 17% per l'acqua, più 19% per i gelati. Non sappiamo da dove abbiano preso questi dati, però insomma sono così, così li comunica Coldiretti, e vedremo se poi avranno aderenza anche con quelli dell'Istat, per esempio. Federdistribuzione dice che a giugno c'è stato un segnale incoraggiante, ma da confermare nei prossimi mesi. Parla di famiglie prudenti nei consumi. Sempre a proposito dei consumi, ci sono le vacanze, perché i consumi ovviamente non sono solamente gli acquisti che facciamo in negozio, ma sono anche gli alberghi che prenotiamo, i luoghi nei quali andiamo in vacanza, la benzina o i biglietti dei treni che compriamo e che acquistiamo per spostarci. In vacanza andranno 34,4 milioni di italiani, quale analisi sono di Federalberghi, un più 3,2%, un giro d'affari da 22 miliardi, il 78% resta in Italia e il mare classicamente è la meta preferita. Diminuisce il numero delle persone che non faranno neanche un giorno di vacanza tra giugno e settembre, ci dice Federalberghi, e questo è un dato positivo. È comunque il 43,1% della popolazione, pari a 24,2 milioni di individui. Poi tra questi ci sarà anche qualcuno che va in vacanza in altri periodi dell'anno, però insomma, come molte persone qua a Radio 24 tra l'altro. Si resta a casa principalmente per motivi economici nel 55% dei casi, per impedimenti familiari nel 18%, di salute per il 16%, per timori legati alla sicurezza addirittura un 10% dei casi e poi per lavoro il 9%. Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti, a proposito di turismo, entra nel capitale di Hotel Tourist, TH Resorts, attraverso la controllata CDP Equity, che arriverà a detenere una quota del 46% della società. Prevede un investimento totale di 20,4 milioni di euro in aumento di capitale. Si intende supportare così il piano di sviluppo della società, che prevede di raddoppiare le dimensioni aziendali con l'apertura di oltre 10 nuove strutture alberghiere nei prossimi 5 anni. E a proposito di vacanze, un gettito di 437 milioni di euro nel 2016 dalla tassa di soggiorno, con Roma a fare la parte del leone, un incasso di 126 milioni di euro per la capitale. Come sapete, l'imposta facoltativa di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive, nelle località turistiche o città d'arte. Il calcolo è stato fatto dall'ufficio studi della UIL. Sempre nel 2016, dopo Roma, Milano ha incassato 41 milioni di euro, Firenze 30 milioni e Venezia 29 milioni. L'imposta di soggiorno può essere, lo ricordiamo, applicata da un minimo di 10 centesimi a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Veniamo al primo tema di questa giornata, la manovra. Ed eccoci, come scrive il Sole 24 Ore oggi, parte da 15 miliardi di euro la prossima manovra sui conti pubblici. 9 miliardi servono per neutralizzare le clausole IVA. Per gli interventi di sostegno alla crescita si attendono i risultati della lotta all'evasione e dei tagli di spesa. Gianni Trovati del Sole 24 Ore torna da noi. Ciao Gianni, eccoci. Ciao, buonasera a tutti. Allora, adesso la butto là, eh. È un po' un film già visto, nel senso che più o meno è qualche anno e quando parliamo di legge di stabilità il tema è sempre lo stesso: reperire le risorse per sterilizzare le clausole di salvaguardia da una parte e guardare con aria speranzosa e non sempre concludente ai tagli di spesa e alla lotta all'evasione per mettere in piedi qualche misura che sostenga la crescita. Sì, diciamo che la sintesi è efficace, in effetti il film è già visto. Allora, per dire qualcosa di nuovo che caratterizza questa manovra a differenza delle altre è che si tratta di una manovra che arriva come ultimo grande appuntamento prima di uno dei turni elettorali più incerti della storia. Quindi al Ministero dell'Economia sono molto preoccupati dei vari desideri preelettorali che si manifesteranno in autunno, soprattutto dalle parti della maggioranza, ovviamente, che ha più diciamo così voce in capitolo nella costruzione effettiva della manovra. Quindi il messaggio chiaro e semplice rivolto dal MEF ai colleghi di governo e alla maggioranza è: signori, non ci sono soldi, le clausole IVA pesano ancora parecchio, anche se l'Europa come al solito ci darà un po' di deficit in più e anche se la manovrina le ha un po' alleggerite, e quindi ci sono pochi soldi. Pochi soldi che se la manovra facesse Padoan, diciamo così, nella sua stanza con un potere assoluto, sarebbero probabilmente tutti concentrati su questa riduzione del cuneo fiscale per i giovani assunti con contratti stabili. Anche questo non che è un po', che è un po', Gianni, che è un po' quello che ha detto a voi nell'intervista che avete pubblicato ieri, no? Esattamente, e sul giornale di oggi abbiamo tradotto in cifre queste indicazioni sulla base del quadro di finanza pubblica disponibile oggi. Qualche piccola buona notizia potrebbe arrivare a settembre, il passo prima della manovra è aggiornare i DEF, cioè aggiornare le previsioni sulla finanza pubblica dell'anno prossimo. E qualche piccola buona notizia potrebbe arrivare, perché nell'ultimo DEF abbiamo scritto che l'anno prossimo cresceremo dell'1%, ma più o meno tutti i previsori, anche internazionali, dicono che la crescita è un po' più sostenuta e si dà un po' più spazio. Naturalmente è qualche miliardo in più al limite, che è sicuramente importante, ma non è un fattore rivoluzionario. Sì. Anche perché lo ricordiamo agli ascoltatori, la soglia da rispettare secondo l'Europa è una soglia che è del 3% nel rapporto tra deficit e PIL. Quindi se cresce un po' di più il prodotto interno lordo rispetto a quanto previsto, evidentemente abbiamo più margini di manovra, molto semplicemente. Esatto, e soprattutto noi dovremmo arrivare tendenzialmente allo zero di deficit, perché abbiamo, se ce lo ricordiamo, cambiato anche la Costituzione, scritto che bisogna fare il pareggio di bilancio. Lo abbiamo fatto, lo abbiamo approvato nel 2012, non l'abbiamo fatto mai e lo stiamo slittando in avanti di anno in anno, per ora è previsto al 2019, quindi insomma prima o poi i nodi al pettine arrivano, e soprattutto arrivano al pettine i nodi del debito pubblico, che produce una serie di interessi che oggi rimangono bassi perché è ancora aperto l'ombrello di Draghi, no? Cioè l'acquisto di titoli di Stato tramite la BCE, ma l'anno prossimo quell'ombrello sicuramente si chiude, interessi, la spesa per interessi sicuramente aumenta, e questo è un altro fattore importante. Gianni, in quest'ambito se ne è parlato molto in questa settimana, a volte forse anche un po' impropriamente. Ti sembra possibile che possa trovare spazio quell'ipotesi di riscatto degli anni di laurea con lo Stato che mette i contributi per alcune generazioni di cittadini? Ma dovendo scommettere qualche euro, scommetterei sicuramente sul no. Nel senso che è una proposta, diciamo così, affascinante sul piano comunicativo, discutibile sul piano dell'equità, perché si laureano anche persone, come dire, di ottima famiglia, con grandi patrimoni e grandi prospettive, quindi non si vede perché regalargli degli anni di contributi, e soprattutto produce una spesa potenziale sul futuro molto ampia. noi viviamo ormai da anni in un sistema in cui le pensioni sono calcolate col metodo contributivo. Tanto versi, tanto prenderai. Naturalmente un riscatto gratis degli anni di laurea rappresenterebbe un'eccezione significativa. Due numeri proprio per dare le dimensioni. Si laureano ogni anno 300.000 persone, regalare 4 anni di contributi a 300.000 persone all'anno produce una spesa potenziale multimiliardaria nel futuro. Le ultime due cose che ti voglio chiedere, Gianni, che riguardano sempre le ipotesi che stanno circolando in queste ore, ma che ci sembrano quelle un po' più solide, no? Anche rispetto a quelle che sono le intenzioni dichiarate tanto dal Ministro dell'Economia quanto dal Governo finora. Innanzitutto l'estensione a tutto il 2018 degli incentivi sui beni digitali, diciamo così, insomma, il cosiddetto super o iperammortamento per le aziende. Sì, questo è molto probabile, l'incentivo fiscale appunto agli acquisti di beni digitali e anche di software si dovrebbe estendere l'iperammortamento anche ai software, è probabile anche perché è in linea con il grande problema italiano. Tra i deficit che noi abbiamo nel confronto internazionale, il più grave è quello sulla produttività. La produttività viene anche con l'innovazione tecnologica. L'incentivo fiscale all'innovazione tecnologica delle aziende ha il grande pregio di andare al cuore del problema con costi per lo Stato sostenibili. È un sistema che ha funzionato e quindi è probabile che venga esteso, allungato e potenziato. Infine Gianni, un intervento invece che mi sembra piuttosto improbabile per le ragioni elettorali che dicevi tu, e lo stesso ministro dell'economia nell'intervista che ha fatto con voi sembra insomma un po' nicchiare su questo tema, la revisione degli sconti fiscali che sono oltre 400, sono una giungla, sono difficili da tagliare perché dove tocchi vai a toccare dei potenziali voti. Esatto, anche questo è un tema che si trascina di anno in anno. Ci sono studi tutti gli anni aggiornati su quanti sono gli incentivi fiscali, quanto costano, eccetera eccetera. La cosa curiosa, diciamo così, è che mentre si studia quanti sono con l'obiettivo di tagliarli, altre leggi ne introducono di nuovi e quindi la tendenza, diciamo, è per ora all'aumento più che alla riduzione. Il problema politicamente qual è? Se io tolgo una detrazione anche piccola, faccio tanto danno a poche persone che però si ribellano e faccio un beneficio quasi impercettibile per la generalità delle persone che quindi non vengono, come dire, spinte a maggiore consenso perché ho tolto un beneficio. Tanto, e tanto rumore contrario a me sui giornali, anche nelle radio, tantissimo, nelle televisioni, perché bastano 50 persone alle quali togli uno sconto fiscale che però si fanno sentire, fanno rumore e ovviamente trovano spazio, come è anche normale che avvenga, tutto sommato, però è dannoso. Ed è la spiegazione per cui si studia tutto nei minimi dettagli ma non si fa per ora assolutamente nulla. E grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Avete sentito quant'è confusa, ma lo sapete benissimo perché vivete in questo paese, quant'è confusa la situazione fiscale. Più avanti proprio di fisco torneremo a parlare, intanto ci fermiamo, sentiamo che cosa ci racconta il meteo, al quale guardiamo con particolare speranza nella giornata di oggi perché avevamo sentito che dovevano arrivare dei temporali, e poi ci ritroviamo subito dopo e ovviamente andiamo sui mercati. Focus Economia. Niente da fare, Nico Schiodetto di Trebi Meteo mi ha deluso perché mi aspettavo qualche pioggia per il fine settimana, invece niente, continua a fare un caldo pazzesco, mentre invece il promo che avete sentito poco fa in onda, quello di Federico Pedrocchi, mi dà l'occasione di dirvi che da domani, da sabato alle 16 e poi in replica domenica alle 10 saremo in onda Enrico Pagliarini ed io con una trasmissione che si intitola Codice Sorgente, dedicata ai grandi temi della tecnologia che ci cambia la vita, molto concentrata sul tema dei dati, di queste grandi masse di dati che finalmente le aziende e anche i governi iniziano in qualche modo a saper utilizzare, anche appunto per fare l'intelligenza artificiale artificiale, o per essere più precisi il machine learning nella fattispecie. Veniamo alla borsa però. Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Sì, buonasera a tutti. Allora, buonasera, cioè, hai ragione tu, buonasera, no, buonasera, sì. In effetti. Giornata positiva, più 0,65% il FTSE MIB, più 0,6% il FTSE O'Share, peggio delle altre borse europee, in particolare di Parigi che guadagna l'1,42% e Francoforte l'1,18%, mentre Londra guadagna mezzo punto percentuale, con l'America positiva, anche sulla scorta i dati dei quali abbiamo dato conto anche poco fa sull'occupazione americana, che sono positivi, Flavia, no? E sono stati questi a muovere un po' le cose nel pomeriggio. Sì, esattamente, diciamo che dopo una mattinata un po' volatile, senza spunti particolari, in cui c'era appunto grande attesa per questo dato sul mercato del lavoro statunitense, quando poi è uscito, visto che è stato migliore delle attese, ha dato la spinta a tutti gli indici, che a quel punto hanno preso decisi una strada del rialzo fino a chiudere con le percentuali appunto che hai dato. A Milano, diciamo, la regina della giornata è stata una banca, che è banca B per banca, che ha guadagnato il 6%, in una giornata comunque, c'è da dire, abbastanza positiva per tutto il settore bancario, anche a livello europeo, comunque diciamo anche sugli altri listini, i principali istituti bancari, sia tedeschi che francesi, comunque hanno avuto performance positive, quindi diciamo è stato un movimento un po' generale. E in più B per in qualche modo ha anche tratto beneficio da notizie che la riguardavano direttamente. L'istituto guidato da Alessandro Vandelli ha dato ieri sera a mercati chiusi quelli che sono i conti del primo semestre dell'anno, e sono piaciuti molto al mercato perché sono risultati migliori delle attese, nonostante ci siano state alcune voci straordinarie, come per esempio la svalutazione del Fondo Atlante, che stanno facendo un po' ormai tutte le banche dopo la risoluzione che è stata trovata per le due banche venete. Questo appunto per quanto riguarda BPR, come ci dicevi. Sì. Abbiamo invece tra i bancari, come si diceva prima, ancora positivo Unicredit, più 0,39%, nonostante la corsa di ieri sia stata veramente consistente. Bene Intesa San Paolo che guadagna lo 0,7%, Mediobanca invece piuttosto fiacca, no? Sì, esatto, alla fine Mediobanca oggi non è riuscita a trarre beneficio da quelli che sono stati i risultati, infatti ha chiuso con meno 0,17%. I risultati Mediobanca ha l'anno fiscale sfalsato, quindi ha dato i risultati di tutto il suo anno fiscale 2016-2017, e quelli dell'anno sono risultati migliori delle attese, però in qualche modo l'ultimo trimestre dell'esercizio ha avuto risultati in calo, quindi probabilmente è stata penalizzata forse più dalla performance degli ultimi tre mesi piuttosto che dal fatto che invece in tutto l'anno è andata bene, e in qualche modo poi sono arrivati anche dei giudizi cauti degli analisti che hanno sì ammesso la bontà dei risultati e dei conti della banca, notando che comunque visti i livelli di quotazione sono comunque rispecchiano bene quelli che sono i valori fondamentali dell'istituto, quindi in qualche modo come se non ci fosse più tanto spazio di crescita rispetto a quello che è il rapporto tra i fondamentali e poi la quotazione a Piazza Affari. Tra i bancari bene anche BPM, si diceva Unipol, c'è anche Unipol che guadagna il 2,32%, bene anche alcuni industriali come Mediaset, più 2,03%, Ferragamo, più 2%, Luxottica che guadagna l'1,7%, bene oggi anche Fineco Bank, più 1,63%, Leonardo, più 1,45%, Carige. Sì, Carige invece, uscendo un po' fuori dal FTSE MIB, è stata un titolo di quelli più penalizzati, ha chiuso alla fine della giornata con un meno 3%, ma era andata a perdere anche oltre il 5% nel corso delle contrattazioni, e in questo caso paga i risultati invece di diciamo beneficiarne, perché il secondo trimestre dell'anno è stato chiuso con una perdita netta di 113,8 milioni e il primo semestre con una perdita di 154,9 milioni e in più ha un dovuto aumentare in qualche modo di 60 milioni quello che è il previsto aumento di capitale già annunciato dalla banca di 500 milioni, anche se in qualche modo la banca ha detto quei 60 milioni non sono proprio un aumento di capitale ma sarà una tranche riservata ai portatori di titoli subordinati se si deciderà una conversione, comunque in qualche modo il mercato l'ha preso come un aumento dell'aumento di capitale, scusate il gioco di parole. Sì, il titolo peggiore nella giornata di oggi, solo una domanda Flavia innanzitutto, abbiamo SST Microelectronics che scende lo 0,68%, suppongo che dopo essere salito nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato parecchio, no? Anche dopo i risultati di Apple, questo sia in qualche modo, no? Una flessione dovuta, per così dire. Sì, un po' sono stati realizzi e poi appunto proprio perché era corsa molto, alcuni analisti hanno iniziato a consigliare di essere un po' più cauti e quindi hanno dato dei giudizi, diciamo, hanno più consigliato di vendere visto quanto aveva già dato bene il titolo. Come si diceva, pochi titoli negativi, tra cui Mediobanca, lo abbiamo detto, -0,17%, Buzzi Unice -0,19%, Moncler -0,31%, ST Microelectronics, ma il peggiore è Campari che cede l'1%. Sì, Campari continua a perdere dopo aver dato i risultati che diciamo, nonostante abbia fatto vedere un utile e ricavi in crescita per il primo semestre dell'anno, quello che non è piaciuto al mercato e continua a quanto pare a non piacere sono stati i ricavi che sono i costi che sono stati considerati un po' troppo alti dagli analisti, e poi perché preoccupa quello che ha detto la stessa società per quanto riguarda i prossimi sei mesi riguardo al cambio euro-dollaro, perché il primo mercato di riferimento di Campari sono gli Stati Uniti e in caso si continuasse ad avere un rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, la stessa società ha ammesso che potrebbe esserci in qualche modo un'erosione dei margini, e quindi di fronte a questa possibilità il mercato continua un po' a penalizzare il titolo. Grazie a Flavia Carletti, Radio Corriere del Sole 24 ore, buon lavoro e buon fine settimana naturalmente. Ciao Flavia. Grazie anche a voi. Siamo a parlare di fisco, l'occasione ce la dà questa notizia che, come già ci scriveva un ascoltatore prima via WhatsApp al 349-238-6666, insomma non è particolarmente nuova, nel senso che è abbastanza normale che si blocchino le cartelle, ormai succede da qualche anno che si blocchino le cartelle nel periodo di agosto per far sì che le cartelle fiscali non arrivino, in maniera che la gente non se le trovi e inizi la decorrenza dei termini, per così dire, mentre magari uno è in vacanza. Oggi è stato annunciato anche per quest'anno, sono state congelate 470.000 cartelle circa, congelate tra il 7 e il 20 agosto. Decisione che non riguarderà 14.500 atti considerati inderogabili e quindi saranno comunque inviati. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, ciao Giovanni, eccoci di nuovo, ti ritroviamo questa settimana per tornare a parlare di fisco. Grazie, buon pomeriggio. Allora, anche qua, come ci dice l'ascoltatore, insomma è abbastanza normale che avvenga questo, no? Diciamo che questo è un atto di civiltà fiscale che si sta ripetendo ovviamente non solo nel periodo estivo, ma anche in quello natalizio, quindi c'è sostanzialmente un congelamento di circa due settimane effettivamente, in cui l'Agenzia Entrate e Riscossione, che è il nuovo soggetto che ha preso il posto di Equitalia, non notificherà cartelle esattoriali sia sotto forma di posta ordinaria, quindi nella buca delle lettere, sia sotto forma di posta elettronica certificata. Quindi insomma è un atto che va anche in scia a una serie di altre misure che si sono state previste. Addirittura c'è una norma, c'è una legge che è stata introdotta nel decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso autunno, che ha previsto che dal 1 agosto al 4 settembre tutte quante le richieste di documenti, informazioni che vengono inviate dall'Agenzia di Entrata, ad esempio sotto forma di lettere di compliance, di controlli, ecco, poi vengono di fatto congelati in tutto questo periodo, il periodo agostano, e addirittura l'Agenzia delle Entrate l'altro giorno ha deciso dare ancora maggior tempo perché i contribuenti potranno appunto rispondere a questi atti fino al prossimo 2 ottobre. Oggi sono anche di oggi tra l'altro i dati sulla precompilata 2017, sono 2,4 milioni le dichiarazioni fai da te, una cifra che segna un aumento del 18% rispetto al 2016, insomma anche qua abbastanza atteso, cioè era atteso che crescesse comunque questo dato rispetto al 2016, si inizia un po' a fare i conti con la novità. Adesso io sentirei cosa succede sulle strade, tra l'altro giornata importante, anche giornata di partenza, anche quella di oggi, e poi Gianni ti vorrei vorrei portare invece sull'altro lato, no? Sul il lato oscuro della forza, per così dire. Insomma, abbiamo parlato della parte buona, parliamo del lato oscuro della forza, ossia il fatto che quest'estate, questo inizio di estate, a partire da luglio, è stato piuttosto problematico dal lato delle scadenze. A tra un attimo. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre con Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, come si diceva, è stato piuttosto complicato, diciamo, quest'estate, in particolare il mese di luglio, dal punto di vista delle scadenze. Addirittura ci sono state delle proroghe che sono arrivate, ce lo raccontai l'altro giorno, dopo la scadenza. Come dire, l'avvio della macchina è stato complesso, ecco, dopo il passaggio da Equitalia a riscossione. Sì, sì. È stato molto molto complicato. Oggi usiamo ancora il condizionale, dovrebbe arrivare in gazzetta ufficiale, quindi avere il crisma dell'ufficialità, anche la proroga delle domande per il rientro di capitali. Ricordo agli ascoltatori che il termine scadeva il 31 luglio, quindi insomma dopo sia di proroghe postume, insomma, non ci facciamo mancare niente. Forse però, per essere un po' di più in termini numerici, i nostri ascoltatori che sono professionisti, lavoratori autonomi, perché per loro c'è ancora una promessa di un comunicato legge, come lo definiamo noi in redazione ormai, di uno spostamento dei termini dei versamenti al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, che ancora però non si è ancora materializzato, quindi ma come fai a spostare un pagamento al 21 agosto? Ma è una cattiveria terribile, no? Guarda, in realtà bisognerebbe forse un attimo capirsi su questo, cioè se si dice che ci sono moratorie estive, se si sospende anche l'invio delle cartelle, le richieste di informazione, allora bisognerebbe considerare poi agosto come una sorta di zona franca e far riprendere tutto quantomeno a inizio settembre. Però ogni anno ci troviamo a raccontare questa affannosa rincorsa ad avere più tempo. Evidentemente il tema del calendario fiscale va posto una volta per tutte con estrema chiarezza da parte di tutti i soggetti in causa, però è bene che poi non ci si trovi a chiedere proroghe, ad ottenere queste proroghe farraginose che devono arrivare, che bisogna poi controllare, che non si spostino i saldi di finanza pubblica. Credo che ogni anno sia estenuante e anche, secondo me, mortificante per i contribuenti, devo dire la verità. Decisamente. Grazie a Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Ciao Giovanni, buona giornata e buon fine settimana anche a te. E adesso torniamo a parlare di calcio. Di calcio si fa per dire, cioè parliamo di calcio e di economia. Torniamo alla vicenda Neymar, che come in parte avevamo accennato in pochi minuti con Marco Bellinazzo l'altro giorno, sta cambiando un po' di assetti, per così dire, e sta anche chiamando al coinvolgimento gli organi di governo del calcio. Insomma, sono molti ad invocare un intervento per il mancato rispetto del cosiddetto fair play finanziario. Oggi la Federazione Internazionale dei Calciatori, che è, diciamo, la nostra associazione, il corrispettivo internazionale della nostra associazione di calciatori, chiede l'intervento della Commissione Europea, questo per darvi un'idea. Il Barcellona ha ricevuto i soldi della clausola rescissoria da 222 milioni di euro. Ricordiamo che l'operazione complessiva del passaggio del giocatore dal Barcellona al Paris Saint-Germain si avvicina ai 600 milioni di euro. Ed eccolo di nuovo Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che sul Sole 24 Ore si occupa di questi temi, ha anche scritto un libro su questo, si intitola I padroni del calcio, come sapete. Marco, ciao, bentornato di nuovo, buonasera. Eccomi, buon pomeriggio. Allora, ma ci sono dei margini di intervento da parte degli organi di governo del calcio secondo te su questa vicenda oppure no? Che idea ti sei fatto? Innanzitutto, come immaginavo, non è avvenuta quella truffa vera e propria che sarebbe stato l'eventuale intervento del Qatar Sport Investment. Ricorderai forse, insomma, che si era parlato dell'intervento del Fondo Sovrano del Qatar per mettere sotto contratto Neymar come testimonia del Mondiale 2022, e questo avrebbe permesso a Neymar, diciamo, poi di pagare con questi soldi, si parlava di un contratto di 300 milioni, la clausola, in modo da non pesare poi sulle carte del Paris Saint Germain. Mi avviso, insomma, sarebbe stata poi una manovra troppo eclatante, tant'è che oggi la prima cosa che il presidente del Paris Saint Germain ha detto in conferenza stampa, insomma, che la clausola è stata pagata dal Paris Saint Germain. E in quest'ottica ti dirò, secondo, insomma, quelle che sono i miei calcoli, le mie valutazioni, Paris Saint Germain, insomma, potrebbe anche starci dentro con i parametri del fair play finanziario. Sembra strano, insomma, ma bravo, anche ieri, insomma, domani lo pubblichiamo sulla pagina di Sport e Business del Sole. Ho provato a capire anche quanto varrà questo investimento in termini di nuove entrate per il Paris Saint Germain, e devo dire che Neymar da questo punto di vista rappresenta un asset incredibile che potrebbe portare netto incremento del fatturato, insomma, tra i 50 e i 100 milioni nel giro di un paio d'anni, incremento strutturale che permetterebbe, insomma, in pochi anni di ripagare queste enorme. Sì. È appunto un vero e proprio investimento. Leggevo da qualche parte un servizio di un collega giornalista, era in inglese, lo leggevo oggi, che diceva: ero in Brasile nel 2015, quindi addirittura due anni fa, per un evento sportivo, e su sette spot che vedevo in televisione, cinque avevano protagonista Neymar. Quindi, come dire, no. Neymar ha un potenziale incredibile, lo sport tra gli sportivi più seguiti al mondo, e oggi il valore social è un valore commerciale primario anche per gli sponsor, per cui davvero, insomma, questa operazione ci porta in una nuova era del calcio, considerando che ha un profilo, diciamo, commerciale per il Paris Saint Germain, ma come abbiamo provato a raccontare in questi giorni, ha anche un profilo geopolitico, che io ho raccontato, insomma, nei veri padroni del calcio, e che testimonia di come il calcio sia usato ormai come strumento anche politico di soft power. Ricordiamo che il Barcellona aveva denunciato la vicinanza del Qatar ad ambienti del radicalismo islamico, per questo aveva cambiato sponsor da Qatar a Rakuten. Il Barcellona l'aveva fatto prima dell'Arabia Saudita e degli altri paesi che hanno isolato il Qatar lo scorso 5 giugno. Ebbene, l'emiro altanese era legato al dito, ma ha restituito tutto con gli interessi, perché vedo difficile continuare questo isolamento, per esempio boicottare la Coppa del Mondo del 2022 dopo questa operazione, dopo che il giocatore più importante del mondo, perché Neymar, 25enne, prenderà il posto di Messi e Ronaldo tra qualche anno, se quel giocatore gioca in una squadra che è il Paris Saint Germain ma che è di proprietà del Qatar, sarà difficile poi boicottare questo evento. Allora, grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore per averci accompagnato anche oggi. Noi chiudiamo qua questa puntata di Focus Economia. Ringraziamenti a Pietro Lacorte in regia, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Noi ci sentiamo domani alle 16 con Codice Sorgente insieme ad Enrico Pagliarini. Una buona serata e un buon fine settimana da Simone Spezia. Radio 24. Libera la voglia di fare.